Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. In alcuni casi i dolori che vengono scambiati per dolori alla cervicale sono frutto di una correzione ottica sbagliata o di una assente. A Obiettivo Salute il dottor Luigi Mele, oculista all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ci aiuta a focalizzare il problema e a capire il nostro livello di rischio. Il processo fondamentale della visione passa attraverso l'accomodazione, che si realizza attraverso meccanismi neuromuscolari complessi. In caso di difetti di vista non corretti o corretti con occhiali insufficienti, si verifica un'alterazione di questi processi accomodativi che si traduce in sintomi quali cefalea e dolore in zona occipitale e nucale. Tali sintomi per di più si accentuano caratteristicamente a fine giornata per un affaticamento globale. Ecco perché in presenza di frequenti dolori cervicali, anche questi vanno indagati attraverso un'accurata e approfondita visita oculistica. Ma se la pillola non va giù, non provate a tagliarla, a triturarla per aggiungerla agli alimenti, per evitare di correre rischi, anche seri. Questa è la raccomandazione degli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. A Obiettivo Salute il professor Nicola Ferrara, presidente della SIG e ordinario di geriatria all'Università Federico II di Napoli. È proprio così, grande attenzione nell'assunzione di farmaci, per esempio la semplice triturazione della pillola è in grado anche di modificare sia la composizione perché entra in contatto con altre sostanze, con il cibo, sia potrebbe non essere assorbito perfettamente. Inoltre il dosaggio, che è un dosaggio determinato dall'evidenza scientifica, potrebbe essere alterato. Niente preoccupazione, niente allarmismi, è necessario un po' di attenzione e riferirsi sempre ai competenti. Quindi al medico ci potrà dire se quel farmaco è possibile dividerlo o meno. Ci sono farmaci in cui è possibile, farmaci in cui è vietato. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog. Io vi aspetto come sempre in diretta video. L'influenza ha già messo KO 500.000 di italiani. L'avete presa anche voi? Volete evitare di prenderla? Allora seguitemi in diretta tra pochi minuti insieme alla dottoressa Giovanna Gatti. Buona giornata da Nicoletta, ci sentiamo domani.